24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Fabio Vaccarono, 44 anni, sposato con una figlia, laurea in economia a Torino e poi NBA alla Bocconi. Oggi è il nuovo country manager di Google in Italia. Ha conosciuto tutta l'editoria italiana, dal Gruppo Espresso all'RCS, al Gruppo Sole 24 Ore, con un'esperienza di consulenza strategica in Baicuneo. Poi ha scelto Google. Ecco, dottor Vaccarono, Larry Page, che è il suo capo americano, dice che il pianeta si è googolizzato. Per questo ha scelto Google? No, ho scelto Google perché, insomma, il digitale, diciamo sempre, è la terza rivoluzione industriale, quindi innovazione, novità. Giovane, voleva starci dentro, ecco. Ma che cosa vuol dire esattamente Larry Page quando dice quello? Ma credo che intenda dire che i nostri prodotti hanno conosciuto un gigantesco successo e il modo con cui i consumatori mondiali accedono alle informazioni è cambiato grazie a noi. Senta, la leggenda dice che 2 milioni di persone vogliono entrare a Google ogni anno, è vero? Ma abbiamo vinto per 6 anni di fila il premio Best Place to Work. Ma sicuramente sono 2 milioni che vogliono entrare? Eh? Adesso non ho il numero esatto, però insomma riceviamo molte richieste. E quanti ne entrano? Ma credo qualche migliaio all'anno. Ma le caratteristiche principali da avere quali sono per essere un googolista, anzi un googliano? Ma dipende molto poi dalle aree aziendali nelle quali si va a lavorare, però sicuramente competenza e tradizione accademica possibilmente eccellenti e poi una vasta ampiezza in termini di interessi e inclinazioni. Senta, i migliori neoassunti, si dice nella retorica aziendale, dottor Vaccarone, si dice che sono quelli che non cercano neppure un lavoro, quelli sono quelli che volete voi, è vero? Ma sicuramente noi stiamo assistendo a un cambiamento del modo di lavorare nei paesi più sviluppati, no? Per cui la microimprenditorialità anche all'interno delle aziende è un fatto, quindi persone che hanno avuto degli interessi apparentemente poco correlati con quello che poi verranno a fare possono essere potenzialmente delle persone aperte e interessanti. Quindi i giovani in Italia che non hanno lavoro sono tantissimi, possono entrare tutti a Google. Su quelli noi stiamo lavorando, proprio presentando dei programmi anche col Ministero del Lavoro, facendo dei corsi e dei tirocini proprio per aiutarli a trovare opportunità aggiuntive. E come fate a trovarli, questi che non cercano neppure un lavoro? Questi che non cercano neppure un lavoro in qualche modo poi finiscono per rendersi manifesti e evidenti per le cose che fanno, per cui sono delle persone comunque attive su altri ambiti e poi catturano la nostra curiosità. Senta, dottor Vaccarone, un'altra massima che mi ha colpito molto è questa: assumi solo chi è più bravo di te. Capita? Ma io ho cercato di farlo nel corso di tutta la mia carriera, anche quando ero nei media o anche nella consulenza. Credo che sia un principio che funziona moltissimo. Cioè lei lo ha fatto? L'ho fatto e continuo a farlo. Perché l'ultima volta che è assunto uno più bravo di lei chi è? Non voglio fare nomi e cognomi, ma è venuto 2 settimane fa. Senta, i più potenti del mondo, siete voi i più potenti del mondo, ma sempre più persone però fanno fatica a accettare di essere solo un vostro target commerciale. Cioè c'è una resistenza, perché secondo lei? Ma io non credo che noi siamo i più potenti del mondo, io credo che siamo diventati irrilevanti proprio perché non abbiamo mai trattato i nostri utenti come dei target commerciali. Però capita, eh? No, noi abbiamo sempre messo al centro del nostro sistema di prodotti e di servizi la rilevanza per l'utente, abbiamo cercato di renderci molto interessanti e molto rilevanti per loro. Il tema del target commerciale è una remotissima conseguenza. Però è vero che Google e Facebook hanno costruito modelli commerciali basati sulla cattura dei dati di personale. No, contesto il fatto che sia un modello commerciale basato sulla cattura dei dati personali. Per esempio nel nostro caso i dati vengono trattati statisticamente e la persona in qua uti singulus è decisamente poco rilevante per noi. Beh, però c'è un po' di ipocrisia in un'azienda come la vostra che gestisce miliardi di ricerche globali ogni giorno, credo. Ma non svela nulla dei suoi algoritmi. Anche questo è stato fatto con un principio di tutela e di interesse per la rilevanza dell'utente. Se noi svelassimo i segreti dell'algoritmo potremmo dare spazio a siti di bassa qualità, del malware, a dei malfunzionamenti. Tutto questo andrebbe a scapito della qualità per i nostri utenti. Senta, dottor Vaccarone, però è vero che gli algoritmi con cui funziona Google, per esempio, sono cuciti su misura prevalentemente sull'inglese, sono meno efficaci su lingue più complesse come sono l'italiano. È vero un problema o no? No, a me questo non risulta. Credo che noi abbiamo, come dire, un giudizio, un metro della nostra capacità di dare un servizio adeguato che viene misurata in real time. Certo è, in alcuni paesi come la Russia, per esempio, gli operatori locali come Yandex, che quindi sono partiti, diciamo, dalla lingua locale, hanno avuto storicamente un vantaggio competitivo, ma non lo attribuirei alla qualità quanto alla tempestività di presidio di un mercato. Cioè? Il fatto che sono nati prima, presto, hanno abituato i loro utenti ad avere un servizio comunque interessante e valido. Senta, ma lei questo famosissimo algoritmo lo conosce o no? Ma io so come funziona, so quali sono i parametri che vengono presi in considerazione, però sicuramente... L'ha mai visto? Non essendo un tecnico, no, diciamo un'entità kafkiana a tratti. Ah, kafkiana, è rimasta kafkiana anche per lei? No, sicuramente... Un po' di curiosità ce l'ha. Ce l'ho moltissimo, al punto che ne conosco le logiche, il funzionamento e quali sono gli aspetti, diciamo, di presidio delle varie variabili. C'è qualche aspetto che un po' l'inquieta, no? No, direi di no, direi che, insomma, non sta a me poi giudicarlo, però il lavoro è stato francamente impressionante. Quando lo si comprende... Ma quanti lo conoscono questo algoritmo? Beh, diciamo che circa metà della nostra organizzazione globale è fatta di ingegneri, di tecnici che si occupano prevalentemente di ricerca e sviluppo e prodotti, e loro lo conoscono veramente. Se non parla bene. Viene ucciso praticamente. No, no, non abbiamo questa cultura oscurantista. Promosso. Senta, il garante della privacy, Antonello Soro, dice che Google, Facebook, Amazon hanno un potere che nessuno ha mai avuto nella storia. Sarà esagerato, però... Qualcosa di vero c'è, no? Ma io credo che, insomma, sia una definizione un po' drastica, insomma, io non la sottoscrivo. Senta, adesso però siete diventati un conglomerato che fa praticamente di tutto, ricerche spaziali, automobili, eccetera. Anche le automobili, è vero? No, questo è un malinteso che desidero chiarire. Diciamo, la nostra forza sta nell'informazione e nell'utilizzo della rete per rendere oggetti di consumo anche quotidiano più intelligenti di quanto non fossero prima. L'obiettivo, per esempio, degli esercizi fatti sulle auto che si guidano da sole è di cooperare, come nel nostro stile, con le case che poi producono le automobili. Sì, come avete cooperato con l'editoria? Ma noi cooperiamo con l'editoria molto più di quanto non si immagini. Abbiamo distribuito l'anno scorso 10 miliardi di ricavi con AdSense. E li avete portato via al mercato anche? No, non li abbiamo portati via al mercato. In realtà la vastità delle nostre collaborazioni, anche in Italia, è molto più estesa di quanto non si immagini. Pensiamo a un editore come La Sette, per esempio, sta su YouTube molto felicemente da un bel po' di anni. Senta, però la Rai si è tolta da YouTube. Sì, però per un fatto di legittimo e normale, diciamo, trattativa di tipo commerciale. Si è tolta da YouTube, ma abbiamo annunciato insieme l'accordo su Play per il cinema per la distribuzione dei contenuti cinematografici di Rai. Vabbè, sono molto minori di quelli per il momento, non c'è in previsione di produrre più film. Senta, ma non è che nel mondo delle automobili ci sono da una parte costruttori tradizionali, dall'altra parte ci siete voi? No. Apple e Google dall'altra parte? Non c'è alcun piano per essere, diciamo, integrati verticalmente, come si dice in politica industriale. L'idea è di rendere le macchine più intelligenti grazie alla connessione con la rete. Però questo è un fatto interessante. Così come nella prima fase della storia dei prodotti si guardava molto alle features di prodotto, c'è stata una seconda fase in cui il brand e la capacità di raccontarla è stata importante. Adesso credo che una gran parte di prodotti e servizi si giocherà su un vantaggio competitivo costruito sull'informazione. E questo sarà vero anche per un oggetto che ci accompagna molte ore della giornata, che è l'automobile. Senta, Vaccarone, lei ha fatto una carriera fulminante, è stato uno dei primi 40 manager a livello mondiale, sotto i 40 anni, per fortuna cresce anche lei adesso. Sono stati più importanti nella sua vita gli incontri che ha fatto o le cose che ha studiato? Ma io direi un mix di entrambe le cose. Ho fatto il liceo classico, che per me è stata una folgorazione sulla via di Damasco, ma non posso negare di aver avuto anche la fortuna di aver lavorato con dei capi straordinari. Ne cito uno, Vittorio Colao, attuale capo mondiale di Vodafone, piuttosto che Monica Mondardini al Gruppo Espresso. Per me sono stati capi eccezionali e ho imparato tantissimo da loro. Senta, lei è nato a Ivrea, che è patria degli Olivetti. Perché non è nata lì un'azienda come Google? In fondo c'era tutto perché capitasse. Ma io credo che per un certo momento della sua storia l'Olivetti veramente avrebbe potuto avere un destino, da Accenture prima e da Google poi. Ci sono un sacco di ragioni. Noi abbiamo, per esempio, un mercato domestico limitato numericamente e molto poco preparato da un punto di vista tecnologico. Ma c'è stato anche uno scontro a livello internazionale all'inizio sull'informatica dell'Olivetti, che in fondo la Fiat contrastava? No, io non credo che sia questo. Credo che a un certo punto... L'ha raccontato l'ingegner De Benedetti questo. Ma io ovviamente non sono al corrente di questo tipo di retroscena. Faccio un'analisi più tecnica, diciamo, da economista. Insomma, a un certo punto si sono affermati dei player che avevano giganteschi mercati domestici, come gli americani, molto più informatizzati dei nostri, potevano saturare il loro ritorno sull'investimento già in casa e poi vendere a condizioni molto aggressive overseas. Però io ricordo, io ho avuto l'onore di fare la tesi di laurea nel 94 in Olivetti, ancora a quei tempi l'Olivetti era il primo produttore di PC europei. Appunto, poi è finito tutto. E poi è finito tutto proprio per i motivi che ho raccontato. Ma se lei guarda, non è solo un caso italiano, voglio dire, grandi produttori di informatica, hardware europei non ce ne sono più. Senta, De Benedetti e gli altri editori oggi dicono con chiarezza che Google gli ha rubato il mestiere, perché si sono presentati come technology e poi invece non è vero, rubano i contenuti e rubano la pubblicità e non pagano le tasse. Allora, sono tre affermazioni che desidererei contestare il merito. Intanto, sul tema dei contenuti, noi non rubiamo i contenuti. Addirittura in America abbiamo avuto un award perché grazie a questo investimento da 60 milioni di dollari che abbiamo fatto in una tecnologia che si chiama Content ID, siamo stati premiati, insigniti del premio come miglior strumento antipirateria della storia dell'internet mondiale. A riprova di questo fatto, noi cooperiamo con moltissimi editori del pianeta. Lo vedremo, sì. Dal punto di vista poi del rubare la pubblicità, noi non rubiamo la pubblicità. Diciamo che la pubblicità, sto conoscendo una rivoluzione che non è dissimile da quella che hanno conosciuto. Però non pagate le tasse, dove prendete, anche questa, dove guadagnate, non pagate le tasse. Tassi. Anche questa è un'informazione. È una formazione giusta. No, sì. Abbiamo avuto sempre una posizione molto chiara su questo. Noi paghiamo le tasse in tutti i paesi in cui operiamo. I paesi competono tra di loro per attrarre investimenti produttivi utilizzando la leva fiscale. Le aziende fanno delle scelte di conseguenza. Allora, abbiamo però sempre detto che laddove queste norme non piacessero più è potere dei politici cambiare, ed è ovvio che noi continueremo a pagare e rispettare le nuove leggi. Vabbè, infatti spendete molto, investite molto in lobby a Bruxelles perché vi aiutino a mantenere questo patchwork di posizioni fiscali che vi favoriscono, diciamo. No, non è così. Non ho mica detto che siete disonesti. No. Dico che approfittate delle circostanze, naturalmente. Lei dice uniformate la fiscalità e noi paghiamo quello che dobbiamo pagare. Questo noi abbiamo sempre sostenuto, per esempio, il lavoro dell'OCSE che sta giungendo a un termine, perché riteniamo, l'ha anche dichiarato il nostro executive chairman Eric Schmidt in un'intervista al Financial Times, che una riforma della fiscalità internazionale in senso di maggiore semplicità, chiarezza e trasparenza sia auspicabile. Questo lo diciamo con molta chiarezza. Senta, oggi anche RCS, lo vediamo in questo accordo con Mondadori, eccetera, insomma, per uscire dalla crisi, ma la crisi è molto nera. È colpa del digitale, secondo lei, oppure ci sono, lei conosce l'azienda, ci sono ragioni strutturali definitive? Allora, premesso che io parlo dell'editoria sempre con un certo trasporto, perché è un settore nel quale ho lasciato una parte molto importante del mio cuore, questo desidero dichiararlo dall'inizio. Io credo che sia un combinato disposto di due fattori. Uno, una crisi molto pesante per il nostro paese da Lehman in poi. Certo. E l'altro, il fatto che le tecnologie attraverso le quali i consumatori prendono e guardano e fruiscono dei contenuti sono cambiate. In questo senso il digitale ha aiutato una trasformazione. Ma il futuro della pubblicità è solo online? Ma stavo dicendo, la pubblicità sta conoscendo una rivoluzione simile a quella che è avvenuta nel mondo della borsa dei prodotti finanziari, cioè si è passati dalla tratta alle grida, dall'asimmetria informativa, dal pozzo negoziale al mercato automatico. La pubblicità sta conoscendo una rivoluzione di questo tipo. Ecco, l'informazione cartacea sembra finita in questo scenario, però c'è un grande americano come Buffett che in realtà in America invece compra tutti i giornali locali. Si sbaglia oppure vede ancora più lungo? Allora, io non credo che l'informazione sia finita, a meno che mai sia finita quella su carta stampata. Quella su carta stampata. Dal punto di vista dei quotidiani locali, anche in Italia, insomma, è un settore del quale mi sono occupato, la capacità di mantenere nel tempo un contratto di lettura con la propria base di utenti dei giornali locali si è dimostrata ancora più forte di quella dei nazionali. In fondo il Gruppo Espresso ha fatto i suoi utili maggiori sui giornali locali. No, questo non è esattamente così. Anche la radio e anche internet hanno dato il loro contributo. D'accordo. Però che i quotidiani locali abbiano una forza in termini di capacità di fidelizzare i propri trattanti, io, insomma, essendo di Ivrea, la sentinella del canavese, certo, non esce mai di casa. Senta, a Londra Google lo legge sempre, la sentinella canavese? Io lo leggo sempre quando torno a casa, i miei genitori addirittura sono abbonati, sanno a memoria. Senta, a Londra Google ha presentato un piano di partnership con editori europei, ne stava parlando. Di cosa si tratta esattamente? Allora, parole. Si chiama Digital News Initiative. C'è un fondo da 150 milioni di euro che abbiamo annunciato. L'idea è, cari editori, siccome riusciamo a fare delle cose egregie su un sacco di fronti, sediamoci ulteriormente a studiare insieme, a capire cosa vuole veramente il lettore digitale, e smettiamo soltanto di presumerlo. E se avete delle idee che sono rimaste nel cassetto perché in un momento difficile temevate di avere dei conti, tiratele fuori e noi siamo disposti a investirci sopra. Abbiamo un founding member italiano che è La Stampa e abbiamo molti editori italiani che stanno salendoci a bordo, per esempio il Tempo. Senta, dottor Vaccarone, la Corte di Giustizia Europea però ha messo una sentenza in cui dice che Google non potrà più conservare i dati dei suoi utenti europei negli Stati Uniti perché non si fidano. Per Google cosa cambia? Ma diciamo che è molto recente questo accadimento, perché una sentenza, ci stiamo studiando giorni, e ci stiamo, questi giorni. Non sono nella condizione di dire che implicazioni avrà questa cosa per me. Però certamente è una cosa importante. Ma lì ci si riferisce a degli accordi stabiliti nel 2000 che rispondono al nome di Safe Harbor, e quindi è stato sancito un principio. Sì, ma insomma di fatto si stabilisce che i dati europei non possono essere trattati. No, il principio è molto chiaro, abbiamo visto anche lo statement di Facebook, ci stiamo studiando. Senta, per la privacy valgono le norme europee, diciamo, per semplificare, non quelle americane. Per voi è peggio? No, io non so dire se sia meglio o peggio, io credo che... Beh, se usavate l'altro vuol dire che è peggio. Ma lì è un tema di organizzazione proprio dei flussi di dati tra server file, sui quali peraltro siamo serissimi perché sembra siamo stati... Sembra un democristiano, tecnico, sì. Preciso, ma diplomaticissimo. No, ma come dicevo, la sentenza, la notizia è molto recente. Sì, per se cui, non avete ancora meditato. Stante la complessità di temi ci stiamo studiando, quindi questo lo dico poco democristianamente. Ah, no, ma non è mica un'offesa. La Corte di Giustizia Europea... ha sancito il diritto all'oblio. Sì. Ecco, quanti si sono rivolti a voi, poi in concreto? Allora, diciamo, il dato cambia continuamente e si possono avere le cifre quasi in real time sul nostro Transparency Report che comparirete. Però in Italia sono circa 24.000 le richieste che abbiamo ricevuto. Ne avete ottenute 24.000 richieste? 24.000 ecco. Richieste di persone che ci hanno chiesto di poter esercitare ecco, il diritto. Ma con quali criteri voi cancellate le notizie? Allora, noi abbiamo cercato, intanto in una prima fase abbiamo formato dei comitati itineranti di probiviri esperti di privacy. Noi cerchiamo di usare dei criteri quanto più possibile oggettivi, tipo la rilevanza della notizia, la pertinenza, quanto è recente, quanto è pubblico il profilo della persona interessata, nel tentativo di far convivere due obiettivi contrastanti che sono il diritto alla cronaca e il diritto alla riservatezza. Ecco, ma non è strano che sia Google a decidere, non un soggetto terzo? Se voi ve la cantate, ve la suonate. Io non potrei, sono poco democristiano in questa risposta, non potrei essere più d'accordo. Noi stessi siamo stati sorpresi che questa decisione ci abbia insignito di un onere così gravoso, perché è un tema molto complicato. Ma non si offenda se ho detto democristiano. No, assolutamente, no. Anzi. No. Senta, adesso arriva Netflix. Google ha dei piani per la televisione oppure no? Ma piani per la televisione non direi che questo è il senso. Noi siamo una piattaforma che mette in comunicazione chi produce dei contenuti con chi ha desiderio di fruirli. Che una nuova generazione di fruitori di contenuti televisivi, anche in Italia, diciamo sotto i 40 anni, sempre meno pensi a televisione e a internet, ma sempre più a schermi di diversa grandezza, da utilizzare i momenti successivi della giornata o addirittura i momenti sovrapposti. Questo è interessante, l'84% degli italiani è esposto al prime time televisivo commerciale con almeno un internet browser davanti a sé attivo e aperto. Sì. Per cui in questo senso è un ecosistema che seguiamo con attenzione, ma sicuramente non da editori televisivi. Di sicuro, a giudicare dai dati, perché oggi YouTube, che è la nuova televisione per giovani, quell'altro schermo di cui parla lei, ogni mese i contenuti sono visionati da circa 6 miliardi di persone, quindi quasi un'ora al giorno per abitante della Terra, quindi Orwell si sbagliava, ma si sbagliava per difetto in definitiva. Ma diciamo, io ho sempre preferito Huxley quando si tratta di futurologie, però non credo che ci sia un tema di... Perché ha preferito Huxley? Ma intanto per la sua enorme erudizione sul 600 francese, che non so perché è un'epoca tanto. Storica, sì, quindi i diavoli di Loudoun piuttosto che l'eminenza grigia. Però al di là di questo, io credo che il controllo in remoto profetizzato da questi teorici di un futuro, diciamo, più cupo, non sia il caso. Noi diciamo sempre che i modelli di business su internet, come il nostro, sono soltanto un paio di click di distanza da una disfatta epocale, per cui domani il consumatore trova qualcosa di meglio e diverso, non ha barriere all'uscita. Noi in gergo anglosassone diremmo non ci sono switching costs. Senta, ma con il vostro modo di profilare gli utenti, però il diritto alla privacy, buonanotte. Ma il tema del diritto alla privacy è un tema che noi prendiamo molto più seriamente di quanto non si immagini, proprio per il motivo che dicevamo prima. La fiducia nella relazione con l'utente è alla base del nostro successo e non soltanto del nostro successo economico. Senta, ma è vero che tutte le agenzie di sicurezza americane hanno accesso a tutti i dati conservati da Google? Ecco, su questo sarò perentorio. Non è vero, non esiste una backdoor e anche lo stesso scandalo cosiddetto NSA, l'abbiamo anche dichiarato pubblicamente, ci ha trovati sorpresi, stupiti e anche indignati. Però gli hacker, non solo gli hacker, sono convinti che Google sia la massima macchina di sorveglianza mai esistita. Ogni tanto gli viene il dubbio anche a lei o no? Ma diciamo, sulla popolazione degli hacker mi dichiaro pubblicamente impreparato. Non è assolutamente l'obiettivo di Google e non credo che Google sia per nulla una macchina di sorveglianza. Senta, lo è oggettivamente. Diciamo, Google ha 53.000 dipendenti, credo, più o meno. 440 miliardi di dollari di capitalizzazione. In Italia quanti? Noi siamo circa 200 persone in Italia e... 200 di 53.000, pochi. Siamo 253.000 perché... Fate pochi posti di lavoro. No, il nostro hub europeo è Dublino, come noto, anche per le dibattute. È noto. E quindi abbiamo moltissimi italiani che lavorano per l'Italia da diverse parti del mondo. Ma questo non è solo un tema di ottimizzazione fiscale, chiamiamolo così, è proprio la logica di queste nuove, diciamo, quanto multinazionali. Quanto fatturato fate in Italia? È un dato che diamo non disaggregato, quindi abbiamo solo il dato mondiale. 66 miliardi nel 2014, poi l'azienda mediamente cresce abbastanza linearmente. Perché non lo date disaggregato? perché è proprio una policy aziendale. E questo, voglio dirlo poco democristianamente, non ha a che fare con i controversi temi fiscali. Perché come poi assomiglia però. Perché come è noto, detto che paghiamo le tasse in tutti i paesi in cui operiamo e auspichiamo riforme, come è stato detto prima, le tasse vengono pagate sui profitti e non sui fatturati. Sì, beh, certo. Parliamo di politica. Senta, in America oggi il digitale viene considerato decisivo per le elezioni, le prossime elezioni americane. Lei pensa che sia giusto? Ma torno al punto di prima sull'informazione. L'informazione ha un grandissimo futuro. Si tratta di immaginarla meno, diciamo, legata alla forma fisica che l'ha resa di successo nella storia. Nello stesso modo i consumatori cercano informazioni sulla politica e le cercano su piattaforme che adesso sono, quindi, più sociali, sì, diciamo, più interattive. È più vero, ha molto senso. Io credo che ci sia anche una vasta e documentata letteratura accademica sul successo di Obama grazie all'utilizzo di queste tecnologie. Conosce Renzi? Io non lo conosco personalmente. Senta, Google, l'abbiamo detto prima, ha speso nel 2014 4,5 milioni di dollari per fare lobbying a Bruxelles. Quindi costa far valere i propri interessi? Ma allora, credo che intanto il processo di lobbying sia tipico di tutte le grandi multinazionali. Occorrerebbe vedere l'incidenza. Non lo dico mica come un giudizio assolutamente negativo, l'incidenza di queste spese sui fatturati globali. Quindi io su questo non ho il benefit. Di certo, essendo cresciuta la nostra dimensione e, diciamo, l'articolata varietà anche delle tematiche con le quali ci confrontiamo, anche la parte non ingegneristica dell'azienda è cresciuta di conseguenza. Diciamo che resta il fatto che la digital tax fa tanta fatica in Europa, l'armonizzazione che dicevamo prima. Può darsi che quei dollari spesi per mantenere le differenze aiutino, no? No, non è solo questo. Per esempio ci sono tutta una parte di programmi invece positivi, penso a quelli che abbiamo promesso, perché crediamo che sia il futuro dei paesi occidentali, di educare in senso digitale 1 milione di cittadini europei entro la fine del 2016. Io stesso con dei corsi di formazione, anche in Italia abbiamo annunciato col ministro del lavoro un'iniziativa che si chiama Crescere in Digitale, che ha proprio l'obiettivo di fare training e di offrire 3.000 tirocini a giovani che oggi non studiano e non lavorano. Questi programmi sono dei programmi che ovviamente vengono condivisi anche a livello europeo con altri stati membri, nella consapevolezza che sempre di più ci muoviamo in quel tipo di contesto. Certo. Lei ha detto che l'Italia è un paese straordinariamente adatto alla crescita del digitale, però incredibilmente arretrato. Perché, secondo lei? Allora, perché è straordinariamente adatto è evidente. Siamo la seconda potenza manifatturiera in Europa dopo la Germania. Certo. Ci hanno sempre detto siete geniali e bravi a produrre qualsiasi cosa. Nella prima ondata della globalizzazione ci hanno sempre detto siete dei nanetti, non avete il muscolo. Ora, grazie a internet, si sta affermando un'ondata di globalizzazione dove ti dicono che la dimensione specifica non importa più. E per esempio con le stampanti 3D e la rivoluzione dei makers sarà possibile rendere economicamente sostenibile piccole produzioni altamente customizzate. E quindi non è vero. Questa è musica per le orecchie italiane. Naturalmente, perché non è vero allora che le piccole e medie imprese sono destinate a scomparire. Assolutamente. Size does not matter anymore. Questo è un punto fermo del nuovo. E quindi penso che questa notizia di internet sia una grandissima notizia. Quindi piccolo di nuovo bello, se ben usato. Piccolo è più che bello, soprattutto se protetto poi da un marchio con una grande allure come il Made in Italy. Il motore di ricerca nostro misura tutti i giorni quanti consumatori mondiali sono interessati a beni e servizi dell'Italia. Quanti? E il numero è crescente a doppia cifra su dispositivi fissi e addirittura a tripla cifra da dispositivi mobili. Senta, adesso so che lei è un appassionato lettore, cosa sta leggendo adesso? Ma allora, in questo momento sto leggendo o rileggendo un Dickens che è il nostro comune amico, ma sul mio comodino c'è sempre forse uno dei libri a cui sono più legato, in questo l'ha detto anche Scalfari, la cosa mi onora non poco, sono i saggi di Montaigne. Senta, ma qual è l'autore che ha inciso di più nella sua formazione? Ha detto che ha una formazione classica, diciamo così. Sì, io ho fatto liceo classico e poi ho fatto studi economici, ma direi una grande folgorazione per la filosofia. E tra i letterati, sicuramente tra gli italiani, direi Manzoni e Leopardi, pur distantissimi nella visione del mondo. Ma la formazione classica, secondo lei, aiuta? Secondo me la formazione classica, su questo voglio essere perentorio, aiuterà sempre di più, perché noi ci muoviamo in un mondo di una tale velocità dove la verticalità delle specializzazioni smetterà di avere senso alcuno. Sì. Imparare, esercitare il muscolo della volontà che apprende è la cosa più importante, forse è il consiglio. E questo, che mi sento questo di gli studi classici lo fanno più che altro, più degli altri. Senta, abbiamo parlato della Rai prima, che ha un grande serbatoio di cultura inutilizzata. Adesso sono cambiati i vertici. Che consiglio gli darebbe per sfruttarlo meglio questo patrimonio? Ma io credo che noi i vertici della Rai siano ancora più preparati su temi di prodotto e di gestione editoriale. Io credo credo che la RAI oggi abbia un tema di rinnovamento dell'età media del pubblico che guarda il servizio pubblico. Noi abbiamo una case history bellissima fatta con YouTube e la Deutsche Grammophon. Il fatto che i giovani non ascoltavano più musica classica, mettendo lì su YouTube i concerti dei Berliner, siamo riusciti sotto i 34 anni a far rifiorire un'inclinazione. Quindi l'invito che anche che diamo, YouTube è una piattaforma, poi l'invito che diamo a RAI, ma mi pare che il nuovo direttore generale l'abbia anche detto in un'intervista al Foglio, è sicuramente quello di usare le nuove piattaforme per trasferire i contenuti unici della RAI in forme che siano giudicate più user friendly. Senta, Facebook sta diventando produttore di contenuti, lei ha detto che voi no, conferma? Sì, sì, sicuramente noi non diventeremo dei produttori di contenuti. Guardi, il fil rouge delle cose che facciamo è l'informazione e la connessione alla rete. Questi sono i temi che ci interessano, siano essi i termostati di nuova generazione o le auto che si guidano da sole. Questo è il nostro Ubicon System, non diventeremo editori. Senta, siamo alla fine, abbiamo inventato il telefono, siamo utenti pazzi di tablet e smartphone, ma non ne produciamo nessuno. Cosa c'è manca? Cosa è andato storto in Italia? Ma io credo che ci siano una serie di fatti. Intanto il fatto che il rapporto tra industria e università non sia stato stretto come altri, diciamo, distretti di elevato tasso di ricerca. Poi la propensione al rischio, credo che il nostro paese debba superare questa sindrome, cioè sia il capitale di rischio che la propensione a provare rapidamente. Il nostro fondatore Larry Page ha un'espressione bellissima che è make beautiful mistakes, fate degli errori grandiosi, perché credo che la velocità dell'evoluzione dei gusti e delle preferenze sia tale che se non si prova e non si sperimenta, ecco, questo agli italiani manca un po'. Senta, un'ultimissima cosa, nello scontro tra Apple e Google sulla pubblicità, chi vincerà? Ma io non credo che ci sia uno scontro tra Apple e Google sulla pubblicità. Diciamo che ciascuna delle due aziende ha un DNA. Sono proprio due modelli di business completamente diversi. Apple tendenzialmente un sistema più chiuso, eccellente, fondato sui prodotti. Noi senza pubblicità. Noi un sistema più aperto e fondato proprio sul ruolo. Ma alla fine pubblicità sì, pubblicità no. Quella è l'alternativa. Ma io credo che con l'evoluzione del traffico più in senso mobile, credo che Facebook sia dal punto di vista pubblicitario tendenzialmente più un antagonista di Apple. Ma questa è una sensazione mia.